Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Obama al vertice di Copenaghen, l'intesa va trovata anche se imperfetta, dice. Evasi 90 milioni di euro al giorno, la Guardia di Finanza tira le somme del 2009. Rubato il cartello simbolo di Auschwitz, Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Sorteggi di Champions League per l'Inter, il Chelsea di Ancelotti. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In apertura il vertice sul clima di Copenaghen, ultimo giorno di frenetiche trattative e di incontri bilaterali per tentare di arrivare ad un accordo. We are convinced, as some of you may be convinced, that changing the way we produce and use energy is essential to America's economic future. E l'avete sicuramente riconosciuta, è la voce del presidente americano Obama che ha parlato pochi minuti fa proprio a Copenaghen. Noi ci colleghiamo con il nostro inviato Sergio Nava. Nava. Sì, buongiorno dal Bella Center di Copenaghen. Discorso carico di attese, non così tanto forse, non è forse corrisposta una risposta da parte dello stesso Obama, carica di, possiamo dire, soluzioni. Obama si è concentrato su tre punti, ha detto innanzitutto occorre un accordo anche se imperfetto, poi i punti su cui si è concentrato sono stati quelli delle azioni per ridurre le emissioni, un meccanismo che garantisca la revisione degli accordi eventualmente presi, che garantisca proprio la credibilità dell'accordo, e anche gli aiuti ai paesi in via di sviluppo. E su questo Obama ha detto che l'America farà la sua parte, dando una porzione dei 100 miliardi che serviranno entro il 2020. Obama ha detto: stiamo finendo il tempo, molti considerano questa conferenza una struttura imperfetta, alcuni vogliono denaro dai paesi sviluppati senza vincoli o obbligazioni, pensano che i paesi appunto industrializzati debbano pagare un prezzo maggiore. Noi sappiamo i nostri errori, ne siamo stati imprigionati per anni, ma il tempo delle discussioni è finito, e ha aggiunto: siamo pronti a chiudere oggi. Ecco, quindi dunque queste le parole di Obama, ma siamo entrati nella fase finale. Ci siamo, Sergio? Allora, è difficile dirlo perché la mattinata è stata segnata soprattutto da bilaterali tra i principali leader, tanto che la sessione plenaria in cui ha parlato Obama, in cui ha parlato anche il premier cinese Wen Jiabao, che si è detto disposto a raggiungere e anche superare gli obiettivi necessari per la lotta al riscaldamento globale, ebbene questa sessione in realtà si è aperta con 2 ore di ritardo, c'è grande fermento. È difficile dire veramente se l'accordo sarà raggiunto o meno oggi. Di questo ha parlato anche il segretario dell'ONU Ban Ki-moon, che possiamo ascoltare. Sergio, queste le parole di Ban Ki-moon, cosa sta dicendo? Ecco, Ban Ki-moon, che diceva appunto le questioni legate al cambio climatico sono le sfide della nostra epoca, e ha detto la linea d'arrivo è in vista, le nostre discussioni stanno portando frutti, il mondo ci sta guardando, siamo più vicini che mai a un accordo, se vogliamo vincere la sfida dobbiamo agire come Nazioni Unite. Sergio, quali sono i punti ancora da superare, gli ostacoli? Beh, diciamo che sono più o meno quelli che ha riassunto Obama. Innanzitutto il taglio delle emissioni, occorrono cifre, non serve dire che si vogliono tagliare le emissioni da parte dei paesi industrializzati, anche perché secondo un rapporto segreto dell'ONU le attuali offerte sul tavolo non impedirebbero comunque un aumento delle temperature, addirittura che potrebbe toccare i 3 gradi nel 2050 con conseguenze catastrofiche per il pianeta Terra. Il secondo punto è quello dei finanziamenti ai paesi in via di sviluppo, forse quello meno controverso, visto che c'è la volontà a dare entro il 2020 100 miliardi di euro l'anno, occorre però decidere come e quando, e soprattutto chi li dà e in quale proporzione. E il terzo punto, il più controverso, è quello della trasparenza dei meccanismi di verifica, cioè i paesi in via di sviluppo che ricevono i soldi devono però poi garantire che questi soldi vengano effettivamente spesi per ridurre le emissioni e anche per adattarsi al cambio climatico. Di tutto questo abbiamo parlato anche con Vittorio Prodi, europarlamentare del PD e membro della Commissione per l'Ambiente all'Europarlamento qui a Copenaghen, e abbiamo subito chiesto com'è la sua impressione. Negativa, nel senso che ci sono delle resistenze che fanno pensare a delle posizioni ideologiche e che non sono per questo orientate ad un accordo. Spero che la responsabilità di tutti i capi di Stato e di governo che ci sono, che porti alla uno spirito di responsabilità per rispondere alla necessità di un accordo. Non possono andare a casa senza accordo. Quali sono i punti che stanno creando maggiore difficoltà? Ma sono parecchi, sono quelle delle, intanto delle limiti che siano legalmente vincolanti, che questo non è stato ancora accettato, sarà difficile. E poi c'è ancora questa adesione, direi a prioristica, al protocollo di Kyoto, che non è che sia da buttare, ma è certamente da cambiare, e quello che tanti paesi vogliono è di non essere comunque obbligati ad essere considerati sviluppati. Ecco, questo è un problema ancora grosso, speriamo che venga affrontato e risolto. E noi ringraziamo Sergio Nava, che ci ha raccontato un po' quali sono gli umori in questa ultima giornata del vertice del clima di Copenaghen, che naturalmente continueremo a seguire nel corso dei vari GR24, non solo, anche attraverso le trasmissioni. Rientriamo invece in Italia ora con le parole del governatore di Banca Italia Draghi, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il mondo del lavoro, tra le preoccupazioni del governatore della Banca d'Italia, intervenendo all'Università di Padova, Draghi ha parlato dell'esigenza di una revisione del nostro sistema di ammortizzatori sociali. Revisione, ha spiegato, che porterebbe benefici all'efficienza produttiva, alla tutela dei lavoratori, all'equità sociale. Secondo il numero uno dell'Istituto di Via Nazionale, oltre 1 milione di lavoratori sarebbe sprovvisto di tutele in caso di perdita del posto di lavoro, stessa situazione per 450.000 parasubordinati. Secondo il governatore, inoltre, tale revisione è oggi il prerequisito per un'estensione della flessibilità del mercato del lavoro a tutti i suoi comparti. Draghi in particolare ha puntato il dito sulla frammentarietà degli ammortizzatori sociali, su un sistema con un grado modesto di copertura. Il governatore ha comunque voluto puntualizzare come il governo su questo abbia fatto moltissimo. Nel corso del suo intervento Draghi ha parlato poi della fragilità finanziaria delle famiglie italiane, definendola bassa, ossia ne è interessata solo una famiglia su 10. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Tempo di bilanci anche per la Guardia di Finanza. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. È una cifra record quella presentata oggi dalle Fiamme Gialle: 30 miliardi di redditi non dichiarati, 90 milioni al giorno. Attanto ammonta l'evasione fiscale nel 2009, almeno quella certificata dalla Guardia di Finanza attraverso controlli a tappeto in tutta Italia. Sentiamo Giuseppe Vicanolo, capo del reparto operazioni della Guardia di Finanza. Soddisfatto e nello stesso tempo motivato ad andare avanti, perché i risultati ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta. Sono 30 miliardi i redditi che sono stati scoperti e verbalizzati per il recupero a tassazione e 5 miliardi e 4 l'IVA dovuta e non versata. Sono questi i risultati più alti della storia della Guardia di Finanza, conseguiti con un impegno quotidiano sull'evasione interna e internazionale che andrà avanti anche nel 2010. Lotta senza sosta anche ai paradisi fiscali internazionali, perché lo scudo, dice il comandante generale Cosimo D'Arrigo, non ha frenato le indagini sui patrimoni esteri, scoperti infatti 5,4 miliardi di euro trasferiti illegalmente, con una concentrazione in Svizzera, Lussemburgo, San Marino e Uruguay. Soddisfazione delle Fiamme Gialle anche per un altro risultato record, la confisca di beni alla mafia per un valore di 2 miliardi di euro, il doppio rispetto al 2008. Aumentano anche le denunce di lavoro nero, scoperto il 12,7% in più di datori di lavoro non in regola. E da Roma è tutta, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Dopo le parole del Presidente del Senato arriva la replica di Facebook. Renato Schifani aveva detto, lo ricorderete, del sito di social network che crea momenti aggregativi più pericolosi di quelli degli anni 70. I responsabili di Facebook concordano sulla possibilità di agire ancora più efficacemente in futuro per evitare istigazione alla violenza. Le parole sono di Richard Allan, responsabile europeo dell'azienda, che propone a Schifani un incontro, un passo costruttivo. Lo definisce la seconda carica dello Stato. Ma si rischia davvero un ritorno agli anni 70? Era questa la domanda del nostro sondaggio di oggi. Sentiamo come avete risposto voi che ci ascoltate. l'aggressione a Silvio Berlusconi, gli ordigni, termini che riemergono dal passato come strategia della tensione. Per alcuni commentatori il clima che si respira rischia di farci ripiombare negli anni 70, i cosiddetti anni di piombo. Ma davvero voi pensate possa essere possibile? Il 61% sostiene di no nel nostro sondaggio di oggi. Sulla stessa linea è Andrea Casalegno, uno che quegli anni li ha vissuti, prima come militante di Lotta Continua, poi come figlio di Carlo, il vice direttore della Stampa ucciso nel 77 dalle Brigate Rosse. Cosa significa ritorno? Gli anni 70 sono stati una cosa molto complessa. Noi normalmente li appiattiamo su quest'unica formula degli anni di piombo, però negli anni 70 c'era molto altro. La stragrande maggioranza degli italiani continuavano a vivere e lavorare pacificamente. Lo stesso paragone, insomma, non sta in piedi. Bianconero torna lunedì alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E noi cambiamo decisamente argomento perché parliamo di calcio. Torniamo infatti sui sorteggi della seconda fase delle Coppe Europee in diretta. Massimo Di Scienza. Buongiorno, è proprio il caso di dirlo, non poteva andare peggio alle tre italiane di Champions League. Negli ottavi la Fiorentina, l'unica nostra testa di serie, se la vedrà con il Bayern di Monaco, il Milan con il Manchester United, l'Inter con il Chelsea. In pratica per le milanesi, che giocheranno la prima in casa, si tratta di due finali anticipate, come si dice in gergo, due sfide dei mille richiami, dei mille risvolti. Il Manchester United, che dicevamo affronterà il Milan, lo scorso anno ha eliminato l'Inter, l'anno prima eliminato umiliandola la Roma. Il Chelsea di Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan, che se la vedrà con l'Inter. Il Chelsea è stato allenato da Mourinho qualche stagione fa e la scorsa stagione ha eliminato la Juventus. Per la Fiorentina, che invece giocherà la prima in trasferta, il Bayern di Monaco è di gran lunga la peggiore che potesse capitare. Gli altri accoppiamenti comunque: Stoccarda-Barcellona, Olympiacos-Bordeaux, CSKA-Mosca-Siviglia, Lione-Real Madrid e Porto-Arsenal. Tra poco i sorteggi per i sedicesimi di Europa League. Interessate Roma e Juventus. Linea allo studio. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato del vertice del clima di Copenaghen con le parole di Obama che abbiamo sentito. L'intesa va trovata anche se imperfetta, ha detto il presidente americano. E poi abbiamo parlato di evasione perché la Guardia di Finanza ha tirato le somme per l'anno che si sta chiudendo. Ebbene, vengono evasi 90 milioni di euro al giorno. Quindi l'allarme del governatore di Banca Italia Draghi, oltre 1.600.000 lavoratori non coperti da ammortizzatori sociali, se perdessero il lavoro. Quindi i sorteggi di Champions League per l'Inter, il Chelsea di Ancelotti, poi Milan, Manchester e Bayern, Fiorentina. Ripartiamo invece da quanto successo nel campo di sterminio nazista di Auschwitz. Il furto del cartello simbolo di quella tragedia, il lavoro rende liberi. Un appello alle autorità polacche affinché facciano ogni sforzo per ritrovare l'iscrizione è stato lanciato dall'organizzazione di riferimento dei sopravvissuti della Shoah. Fammi sentire, devi uscire soltanto quando c'è silenzio assoluto e non vedi più nessuno, per sicurezza. Ripetimi. Io non esco finché non c'è nessuno. Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. La scritta accoglieva milioni di deportati ad Auschwitz per essere poi destinati ai lavori forzati e alle camere a gas. I prigionieri che lasciavano il campo per recarsi al lavoro o che vi rientravano erano costretti a sfilare sotto il cancello con la scritta, ideata dal maggiore Hess, accompagnati dal suono di marce marziali eseguite da un'orchestra di deportati appositamente costituita. Quel cartello nella notte è stato rubato, le ricerche però per il momento non hanno dato esito. Solo ieri la Germania aveva annunciato di essere pronta a donare 60 milioni di euro per la manutenzione dell'ex Lager, la metà del denaro necessario per preservare alla memoria le rovine delle baracche e delle camere al gas del più noto dei campi di concentramento nazista, dove hanno trovato la morte centinaia di migliaia di persone. Sono morto. Con altri 100. Per far sì che nessuno dimentichi mai. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. In attesa che la neve arrivi anche da noi, almeno in pianura, perché montagna sta già arrivando copiosa, disagi, traffico in tilt in mezza Europa. Abbiamo fatto il punto sulla Francia nel GR delle 12, sentiamo come va in Gran Bretagna. Strade bloccate, incidenti, sospensione della corrente elettrica, aeroporti e stazioni chiuse. La Gran Bretagna, dove ieri sono cominciate tempeste di neve, questa mattina si è svegliata sotto un manto bianco che a sud-est ha raggiunto i 20 centimetri. La neve ha gettato nel caos trasporti pubblici e automobilisti. In Essex la polizia ha dovuto intervenire in 180 incidenti stradali, ben 230 in Suffolk, dove una dozzina di automobilisti hanno dovuto addirittura trascorrere la notte nelle loro vetture. Altri hanno abbandonato le auto in strada. Ghiaccio e neve stanno rendendo impraticabili le piste dell'aeroporto di Gatwick e Luton, mentre a Heathrow previsti ritardi e cancellazioni. E sui bianchi parchi britannici, pupazzi di neve, slitte e migliaia di bambini in vacanza anticipata, con oltre 500 scuole che sono dovute rimanere chiuse, mentre le TV continuano a lanciare l'allerta di quello che si prevede sarà un bianco Natale. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. Ed ora a Roma per la conferenza stampa del ministro della difesa Ignazio La Russa. Ci colleghiamo con Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. Il tradizionale appuntamento al Ministero della Difesa per gli auguri di Natale è stato anche l'occasione per Ignazio La Russa di tracciare un bilancio dell'anno trascorso. Dopo gli auguri ai militari, il ministro è intervenuto proprio sul tema delle missioni all'estero, il cui rifinanziamento, lo ricordiamo, è stato votato ieri in finanziaria. E allora sentiamo le sue parole. Innanzitutto lasciatemi dire che c'è stato un piccolo miracolo ieri alla Camera. Voti contrari zero. È una di quelle di quei risultati che, specie in periodi come questi, mi inorgogliscono e fanno capire che le priorità del 2010 sono ancora quelle di cercare di contribuire con le nostre forze alle missioni internazionali per ridare una speranza a quegli sfortunati popoli, ma anche per tenere in massima condizione di sicurezza il più possibile alta la nostra patria, la nostra Italia, le nostre città. Positivo poi per La Russa il bilancio dell'operazione Strade Sicure. Chi prima polemizzava ora è contento, ha detto, prima di annunciare un'iniziativa del Ministero della Difesa. La cosiddetta mini NAIA, ossia lo stage atletico militare per ragazzi, sarà esteso per 3 anni e coinvolgerà 5.000 giovani in 2 turni annuali. A margine poi un commento per la stampa sulle regionali. La Russa ha detto di apprezzare la possibilità che in Veneto la Lega possa scegliere di far correre per la poltrona di governatore Luca Zaia, ossia l'attuale ministro dell'Agricoltura, che in caso venisse eletto dovrebbe ovviamente dimettersi. E da Roma è tutto, linea a voi. Grazie Maria Chiara Grandi. Se torniamo ora invece sulle polemiche dopo la rimozione del prefetto di Venezia. Era a Venezia da appena 4 mesi e prima era stato a Padova, un prefetto stimato da tutte le parti politiche. Ma il Consiglio dei Ministri ha deciso ieri che Michele Lepri Gallerano dovesse essere destinato ad altro incarico. Motivo ufficiale del trasferimento non è dato sapere. Su quello ufficioso sono d'accordo un po' tutti, dal sindaco Massimo Cacciari al presidente uscente del Veneto Giancarlo Galan. Lepri Gallerano non ha impedito il trasferimento della comunità Sinti nel nuovo villaggio costruito dall'amministrazione comunale alle porte di Mestre, cosa che alla Lega non è andata giù, tanto più che gli esponenti locali del Carroccio da 2 anni si battevano contro la realizzazione delle casette, ricorrendo prima al TAR e poi al Consiglio di Stato. Ricorsi rigettati entrambi, per cui a metà novembre il prefetto ha lasciato che il trasferimento dei nomadi avvenisse di notte per evitare incidenti e inutili scontri con quanti erano contrari. Un affronto che la neopresidente leghista della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, non ha perdonato e dal ministro Maroni è arrivato l'ok al trasferimento del prefetto Lepri Gallerano. Una vera vendetta politica, secondo il sindaco Cacciari, che si è sempre assunto assieme alla giunta la totale responsabilità della realizzazione del villaggio e del trasferimento dei nomadi. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Venezia. Una vicenda giudiziaria sul copyright sugli astri e davanti ad un tribunale civile di Milano finiscono 2 stilisti. Il cielo conteso dalle griff. Da una parte Ottavio Fabri, figlio dell'editore, dall'altra la Gianfranco Ferré S.P.A. e le costellazioni finiscono in tribunale. Le stelle luccicanti sui giubbotti, l'orsa maggiore sui top, il piccolo e il grande carro sfavillanti su abiti eleganti. C'è un copyright sulla riproduzione della volta celeste. Tocca anche questo aspetto la causa civile e penale carabiniere mossa dalla M31, società licenziataria del marchio Stars & Stars dei Fabbri, contro la Ferré, accusata di aver messo in vendita repliche di modelli registrati nel 2007. Per questo alla giudice milanese Claudio Marangoni chiedono con provvedimento d'urgenza il sequestro dalle boutique di abiti e accessori contestati. Gli abiti ispirati a quei disegni dello stesso Fabbri che gli valsero il patrocinio dell'agenzia spaziale, a loro dire sarebbero una loro esclusiva. Ma si può mettere un marchio sul cielo stellato? Obiettano i difensori della Ferré, che è in amministrazione straordinaria, considerando inammissibile la richiesta. Anche perché, aggiungono, sui nostri capi ci sono schizzi di vernice e non polvere di stelle. Il giudice presto prenderà una decisione. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. I capodogli avevano ingerito enormi quantità di buste di plastica e reti da pesca, non riuscivano più a mangiare e sono morti di fame. È arrivata la spiegazione sul perché abbiano perso la vita nelle acque del Gargano 5 dei 7 cetacei spiaggiati nei giorni scorsi. Probabilmente, spiegano gli esperti, avrebbero confuso quegli oggetti con il loro unico cibo, ossia i calamari. Funga alla fia, asce, asce. Funga alla fia. Dunque pare che la sentiremo lunedì questa canzone, perché si farà appunto lunedì alla scuola primaria Manzoni di Cremona la contestatissima festa delle luci, contestata perché da qualcuno giudicata troppo laica, nessun riferimento religioso, niente bianco Natale, anzi questo canto ganese che sentite in sottofondo, tanto che sono intervenuti ben due ministri, Gelmini e Zaia, tutti molto arrabbiati. Genitori ed insegnanti invece l'hanno difesa questa festa, spiegando che di antinatalizio e anti Gesù Bambino non c'è davvero nulla. La festa si fa da 15 anni, quando di immigrati islamici non c'era l'ombra a scuola. Poi l'intervento di buonsenso, devo dire, del comune di Cremona, che ha lasciato libera la scuola di fare quello che vuole. Canta vittoria la vicepreside Cristina Manfredini. Allora, vicepreside, come avevate chiesto, la festa lunedì dunque si farà. Non so mai chiesto come avevamo scritto, previsto, programmato, deciso insieme ai genitori, perché noi non abbiamo una luce sola a scuola, abbiamo 237 luci che tutti i giorni si illuminano e a Natale fanno gli auguri ai loro genitori e parenti. Insomma, una bella vittoria però per voi, no? Che vi siete battuti per questo. No, è una, più che una vittoria. Su una festa delle luci di una scuola elementare del comune di Cremona che si svolgeva in serenità da 15 anni. Che di antinatalizio e antireligioso non aveva nulla. Non ha nulla, perché se si svolge a Natale vuol dire che nasce dalla volontà di farsi degli auguri di Natale, altrimenti non si svolgerebbe a Natale, ma... non so, prendiamo un rito celtico, ecco, si svolgerebbe in occasione di un rito celtico, invece si svolge a Natale, chissà perché. E questa era la nostra ultima intervista di questo GR24, in cui abbiamo parlato abbondantemente del vertice sul clima di Copenaghen. Abbiamo sentito anche le parole del presidente americano Obama: l'intesa va trovata, detto anche se imperfetta. Quindi le parole del governatore di Banca Italia Draghi: oltre 1.600.000 lavoratori non coperti da ammortizzatori sociali se perdessero il lavoro. Evasi 90 milioni di euro al giorno. Questi sono stati invece i dati diffusi questa mattina dalla Guardia di Finanza. E poi abbiamo parlato di calcio, perché ci sono i sorteggi di Champions League per l'Inter, il Chelsea di Ancelotti, poi Milan Manchester e Bayern Fiorentina. Questa era l'ultima notizia di questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.